che poi magari durante la notte si dovrà alzare per mangiare ancora. Non lo so, vediamo se sei andato all'ascolto. Marco, ci sei? Non c'è, forse sei andato al mare, dai. Così almeno rientra con un po' più di appetito e mangia anche di più, dei soliti giorni. Avanti, Giofra. Sì, mi è sembrato di sentire un break d'Alghero, se non ho capito male. Avanti il break d'Alghero, se mi ricevi. Sì, qua a Sassari il tuo segnale è S4, la radio intorno al 4 con un po' di USB. Non so se Giulio ti ha ricevuto, te lo mando avanti dato che mi ha detto che lo senti. Giulio, vai avanti per Mirko che si trova ad Alghero. Sì, lo sento, basso. Con un po' di difficoltà, ma lo sento, lo sento. Ciao amico, sono Giulio, non ho capito il tuo nome nativo, comunque pensavo che fosse Carlo, invece tu mi hai detto un altro nome o Gianfra, invece no. Adesso lo rilancio e vediamo un po', lui ripeterà il suo nome nativo. Avanti l'amico di Alghero per Giulio a Sassari. Gianfra, non lo sento che sta parlando, però non capisco, c'è molto QRM, cioè il QRM è più alto di quanto è il suo segnale, perché ne arriva qua a Santiago 3, 4, non di più. Sì, comunque si chiama Mirko, è Mirko, ed è Alghero, non, probabilmente con veicolare, con antennino, non lo so. Vediamo se Natalino lo riceve. Natalino? È negativo, anche qua. Hai ricevuto Mirko? Gli altri amici, sia Giulio sia Natalino, non ti ascoltano, eh? Anch'io diciamo ti ascolto quando sale un po' il QRM, anch'io ti ascolto con difficoltà. Vediamo un po' se il QRM è basso, se la cosa migliora, ecco. No, la modulazione va abbastanza bene, ti dirò. Il segnale che è bassino, ho capito il segnale. C'è una mezz'onda e quindi forse l'antenna che male non sta rendendo è anche la posizione. Mi dici dove sei esattamente, Alghero, se sei a zona Porto, se sei da qualche altra parte? Sì, ho capito, sono esattamente dentro Alghero, però non ho capito la zona. Ah, ho capito, all'uscita della strada di Alghero, quasi alla strada, in una campagna, verso la strada dei Due Mari. Ok, allora magari è un po' bassa la zona, ecco, è tutto lì, un po' bassa. Giulio, tu proprio non lo senti? Io lo sento, però siccome arrivano degli impulsi di QRM fortissimi quando sta modulando, non riesco a capire chiaramente quello che dice. Ho capito che è un'antenna autocostruita, credo di aver capito così. Mi confermi, Gianfra? Sì, confermo, un'antenna autocostruita, una mezz'onda praticamente. Ti confermo il nome, Mirko. Confermo che si trova una campagna, quindi probabilmente l'antenna non sta lavorando proprio benissimo, oppure semplicemente la zona che magari è infossata rispetto a Sassari e quindi magari vuole alzata, ecco, sarebbe la soluzione ideale, è tutto lì. Vediamo Natalino, per te Natali? Non lo sento, no, non c'è nulla a fare, cioè il QRM è troppo alto. Sì, purtroppo si è alzato un po' il QRM. Né Giulio né Natalino riescono a sentirti perché ovviamente essendo all'interno della città loro hanno un pochino più QRM di me magari. Però anch'io diciamo ti ascolto a volte quando si solleva con una certa difficoltà. Ripeto, per quello che mi riguarda la radio va bene, è proprio un problema di segnale. Tieni presente che verso quella zona di norma sono abbastanza aperto, però probabilmente magari la campagna dove sei è bassa e quindi non riesci a dare il massimo con l'antenna. Vediamo un po' se mi hai ricevuto, a te ancora Mirko. E adesso Mirko anch'io ti ho sentito con difficoltà perché c'è anche un po' di propagazione, quindi a volte si sente qualcuno che parla da fuori, quindi c'è qualche difficoltà adesso anche per me. Ripeti quello che hai detto, vediamo un po'. Ah ok, quindi è confermato quello che dicevo. Allora Giulio Nathaniel, lui si trova a un punto basso in questa campagna ed è quello che probabilmente ci impedisce di ascoltarlo in maniera migliore, ecco. E niente, di lì si tratta di mettere un tubo più alto. Ti posso consigliare anche una diversa antenna, magari una più alta, una che dia un pochino più di guadagno, perché a frequenze così basse, diciamo in 27, qualche problema con le antennine si ha sempre, non danno una buona uscita, tutto lì. Anche adesso c'è stato uno strato, mi è sembrato di capire che stai andando all'ascolto, giusto? Assolutamente, non c'è problema, finché sentiamo noi facciamo entrare tutti, anzi siamo già così in pochi che sarebbe bello parlare anche con Alghero. Certo, occorre un pochettino avere il segnale, perché basta, non niente oggi, anzi è una giornata abbastanza tranquilla e quindi siamo riusciti a tirarti fuori, ecco. Ma in condizioni di rumore come c'era in queste giornate qua è un po' difficoltoso, tutto lì. Ti auguro una buona serata, dato che tu li senti sia Natalino che anche a Giulio, ti faccio salutare direttamente da loro. Riprendi Giulio per i saluti a Mirko, che sta allontanando e ha detto che non ci vuole disturbare oltre, ma ripeto, non è un disturbo, anzi più ce n'è meglio è. Ok, figurati Mirko, ma assolutamente no, anzi è un piacere, sono dispiaciuto che non riesco ad ascoltarti bene, perché il tuo segnale è basso, Santiago 4, però ho delle oscillazioni spaventose, che do di segnale sale anche a 7-8 riguardo il rumore, il QRM, per cui mi impedisce di capire esattamente ciò che dici. Qualche parola riesco a estrapolare di quello che dici, per cui mi dispiace veramente, non ti preoccupare che tu non disturbi, quando vuoi entrare, sperando sempre che ci si possa collegare, ci fa sempre piacere. Ok Mirko, salutone ancora, Giulio ti abbraccia e ti saluta, alle prossime, dai, sperando di sentirci ancora in migliori condizioni, ok? Io ti mando avanti Natalino, probabilmente lo senti, ma lui non sente a te. Avanti Natalino per salutare Mirko. Ciao Mirko, salutoni 73. Purtroppo io non ti sento a causa del QRM troppo alto, dai. Ci sentiamo magari in migliori occasioni. Avanti Gianfra. Sì, ok, perfetto. Ciao ancora Mirko. Buona serata, buona domenica. Niente, purtroppo a volte, vedi, anche nelle zone favorevoli basta essere un pochettino più in basso e avere qualche conca, ecco, che automaticamente si viene, c'è una tensione di segnale paurosa. Purtroppo è così, c'è poco da fare. Va bene, riprendi Giulio, allora stavamo parlando di quella caduta lì, e io ho visto quella di quella scema lì col cartellone, veramente una cosa allucinante. Sì, già fa, ma dopo quella caduta, più avanti, proprio vicino al traguardo, pochissimi chilometri dal traguardo, c'è stata un'altra caduta spaventosa. Fortunatamente non c'erano burroni lì, perché sono finiti addirittura nelle cunette i ciclisti, con un certo capitombolo fenomenale. Sì, beh certo, è stato un incidente grave, anche perché pensi che ci sono state delle biciclette, addirittura che si sono proprio spezzate, sicché si può immaginare a che livello di cosa erano, anche perché nel finale, sai, tu, quando sono in finale i ciclisti vanno a tutta birra, di conseguenza a velocità altissima, e allora è successo che evidentemente o si sono toccati qualcuno, che lo sa, boh, il fatto sta è diventato un capitombolo generale, proprio con gente proprio che ha saltato per aria ed è finita in cunetta, no? Guarda, è stata una giornata disastrosa ieri con la tappa, peccato, perché il Giro di Francia è sempre una gran bella corsa, lo sappiamo benissimo, e appassiona un po' tutti quelli che seguono il ciclismo, anche diciamo che è la miglior corsa dell'anno sempre, però quando incomincia così è brutto. Infatti c'era Froome, quello che ha vinto 4 volte il Giro di Francia, non so ieri, cioè non se oggi è partito, perché ieri è arrivato oltre un quarto d'ora in ritardo, proprio a causa della prima caduta, e lui è stato coinvolto in maniera pesante, ma è ancora già qua. Io diciamo non lo sto seguendo perché tante cose da fare, quindi non c'ho il tempo di guardarlo, però diciamo so, avendo visto tante gare anche qua in locale e così via, so che c'è gente troppo fuori di testa che combina un sacco di guai e sarebbe meglio rimanersi a casa. Tutto lì. Riprendi Natalino, ho sentito che l'uccellino ha tornato, c'era proprio voglia di cantare. Natalino si è riallontanato. Cosa ti volevo dire, Giulio? Comunque, visto la Game Master, c'ha un ottimo rendimento, nonostante che io abbia questo problema delle giunzioni, infatti appena c'è un po' di tempo, adesso non fa perché fuori c'è una temperatura folle, ma appena c'ho tempo tolgo il PL, no, c'è un PL e un barilotto perché il cavo non bastava, e faccio una soldatura e copro tutto perché non è possibile, ti fa perdere un casino il segnale. Già sono basso, poi con 40 metri di cavo arrivo ancora più basso. Sì, già, ma io l'ho sempre detto, la Game Master per me è una buona antenna per questa qua, per cui non ne vedo la ragione per la quale uno non debba usarla. Sembra anche diciamo fragile nel vederla, e magari può sembrare anche molto costosa vedendo il tipo di antenna, non è come la struttura ad esempio di una mantova eccetera, che c'è un certo valore anche di manodopera e di alluminio, di materiale eccetera, mentre invece la Game Master però ha il vantaggio di essere un'antenna leggera, molto flessibile e rende, non ci sono dubbi, per me rende bene. Tu pensa che io dopo aver fatto il primo esperimento ce l'avevo io autocostruita e dunque non certamente originale, però andava bene che era una meraviglia, l'ho tenuta roba di 2 anni e mezzo, l'ho tenuta sempre fissa. E questa antenna qui adesso in realtà prima era di un amico che poi l'aveva data a me, l'avevo comprata da lui, però l'avevo ad un parente, l'avevo data, che questo parente non l'ha mai installata, anche perché non è a Sassari, è vicino a Cagliari, a Carbonia per esattezza. E io allora gliel'ho richiesta e me l'hanno riportata, e io gli ho dato quell'auto costruita in cambio. E allora a questo punto devo dire che di avere l'antenna originale, perché è così, in effetti è così, ce l'ho originale. So che è costoso, perché costa 160 euro, più il trasporto diventano anche 170, ma però devo dire che mi va bene, ma io l'avevo tolta soprattutto perché la mantova turbo, che tra l'altro ce l'ho ancora nuova fiammante, dopo averla utilizzata 3-4 anni l'ho tolta perché fischiava la notte, i radiali mi davano un tremendo fastidio quando c'era vento, nell'inverno eccetera, e allora ho optato per l'antenna autocostruita e poi ci ho fatto tutto il discorso come è andata e come adesso mi ritrovo con l'antenna originale invece. Vai, io qua. Sì, Giulio, anch'io la dovrei alzare, però c'ho il problema, il mio è un sistema un po' monopersona come lavoro, capito? E quindi quando io la tiro su io utilizzo l'argano, perché c'è un tubo che deve andare ad agganciarsi al traliccio, quindi tirare su il tubo dall'orizzontale, il primo tratto è abbastanza pesante, infatti ci sono anche le caducole, e poi quando il tubo sale tutto il gioco è fatto, però quando sale ti posso assicurare che tutto il tubo in se stesso si piega parecchio, proprio perché è una cosa, l'antenna non è pesante, anzi è leggerissima, prima con la mantova impensabile mettere più tubo perché l'avrebbe spezzato, però insomma con questa è fattibile alzare un altro pochino, non più di tanto perché è molto molto faticoso comunque, e siccome io devo operare senza chiamare nessuno, quindi mi piace fare le cose così, anche sul traliccio è tutto organizzato in modo che le antenne scendano, però ci sono corde, carrucole, tiranti e chi più ne ha più ne metta, cioè è una cosa abbastanza complessa, ecco. Adesso c'è questo problema dei PL che si corrodono, quindi risolvo il problema facendoci una bella saldatura, perché a cambiare il cavo è talmente lungo che mi costa 3-4 volte l'antenna, perché devi mettere cavi buoni, però io sono sicuro, guarda, tu fatti il calcolo, cosa sono 40-45 metri di cavo, di cui anche con un'aggiunzione, quando esci con 2 watt di potenza in antenna, io penso che un watt se lo mangia. Se tu pensi che con in gamma UHF ho calcolato praticamente una perdita enorme, quindi ho dovuto togliere quei cavi anche se erano buoni, ho dovuto mettere il Celflex, senza Celflex in UHF a distanza di 30 metri non fai niente, ti mangia la potenza come un vampiro, e quindi è così, tu pensa che quasi non mi arrivo a segnali di potenza, quindi ti puoi immaginare, dovevi operare con 50 watt per uscire con 20. Sì, beh, certamente sì, ho già fatto, ma è così che effetti. Ma tanto per darti un'idea, allora partiamo da questo, io faccio, ti faccio tutta la cronostoria mia, come la situazione per quanto riguarda l'altezza dell'antenna, eccetera. Intanto io, dove abito io, rispetto a Sassari, sono esattamente 90 metri sotto il livello di Sassari. Dunque io sono a 135 metri, questo misurato con lo strumento professionale di mia figlia, eccetera, sotto casa, dalla strada, cioè la strada è a 135 metri sopra il livello del mare. Dunque rispetto a Sassari sono 90 metri sotto Sassari, primo. Secondo, l'antenna piazzata nella parte bassa della casa, il che significa al tetto, la parte di davanti è alta 7 metri, seguimi, mentre la parte di dietro sono 10 metri e 50, perché c'è tutta la pendenza del tetto, no? Tutta la piovenza del tetto. Allora, dal tetto poi, siccome io l'antenna ce l'ho piazzata nel terrazzo della mansarda, tu immaginati un davanzale di una qualsiasi finestra normalissima, e cioè 90 cm più o meno di altezza dal livello del pavimento, ho messo due staffe col trapano a martello lì, e ci ho avvitato due belle gaffe lunghe 20 cm nel muro a blocchetti, e ho messo un tubo da quel muro lì, che è alto già 90 cm, all'altezza dell'antenna, e cioè dove c'è la bobina, sono esattamente 2,5 metri. Proprio ieri l'ho voluto misurare con certezza, 2,5 metri. Però c'è anche la discesa del tetto, di conseguenza una parte è 2,5 metri, ma dall'altra parte in realtà è meno di 2 metri anche. Ora tieni presente che questo tipo di antenna è stata tarata per un'altezza almeno 5 metri da qualsiasi piano riflettente, per cui se io la dovessi mettere dall'altra parte della casa dove avevo prima la mantova turbo, premesso che già 3,50 metri più alta la casa della parte di davanti, oltre a quello avevo anche 6 metri di tubo, avevo, per cui ti puoi immaginare quanto dovrei migliorare anche di resa. Io ne sono più che convinto, Gianfranco, vai. Sì, guarda, la mia altezza più o meno l'attuale, sono 142 metri sul livello del mare. Questo ho preso in stazione, perché questo apparato c'è anche il GPS, quindi mi sta dando questa altezza qua. Adesso, considerato che c'è di mezzo un traliccio, un tubo discretamente alto, aggiungici altri 20 metri, fa che sia 160 metri, dai. Però il fatto che riesca ad arrivare anche con 2 watt è essenzialmente dovuto innanzitutto al tipo di cavi, sicuramente al tipo di cavi che sono messi senza risparmio, perché ovviamente quello che importa è l'antenna come è posizionata, ma anche il cavo che deve portare l'RF in antenna, perché se il cavo è scadente, qua se ci fosse un RG58 probabilmente non uscirei, non mi sentiresti neanche, forse S1, S2. Quindi così. Adesso, volendo fare le cose per benino, anch'io potrei aumentare, fissare meglio il tutto, andare oltre gli alberi che ho, perché Alghero mi è un po' coperto a causa proprio degli alberi che sono più o meno alla sua altezza. Purtroppo gli alberi non si possono tagliare, perché non sono neanche miei dall'altra parte, però ci sono, ecco, quindi devo alzare l'antenna per cercare di scollinare questi alberi. Però per davanti non c'ho problemi, perché io sasso tutta in Otica, Sennori, Osilo, anche le parti di Ploaghe, anche verso Ziri so che comunque riesco a ricevere, quindi insomma non è brutta la posizione. Mi sarebbe indubbiamente andato male se ero più in basso, ma sai, con le radio bisogna anche sapersi accontentare, ecco. Non è che ti puoi comprare la casa in montagna per andare più forte. Beh, no, di certo, ci mancherebbe. Io non so, visto e considerato che l'antenna dove ce l'ho adesso era praticamente perché dovevo fare tutte le prove per accordarla come si doveva, sempre parlando di quando avevo fatto quella autocostruita, cioè quella canna da pesca. E da quel giorno è rimasta lì, e da oltre 3 anni ho l'antenna sempre lì, non l'ho mai più spostata. Se io dovessi per dire decidere di metterla dall'altra parte della casa, che ripeto, intanto rispetto a dove adesso è già 3,5 metri più in alto, primo, più potrei mettere un palo da 6 metri, cambierebbe in maniera totale, proprio sicuramente, già fa. Ma siccome non mi interessa più di tanto, io non ho la malattia di dire che devo arrivare il 9 più 20, non me ne frega niente, io ti posso arrivare anche a Sant'Agosto, basta che mi senti e mi va bene così. Lo stesso con l'amico Pocanti del Friuli, ha sentito 9 e 5 del radio e 9 di segnale, va più che bene, che se ne frega di arrivare ad una stazione 9.10 o 9.20, non me ne frega niente. E per cui vedi bene che sono contento lo stesso. Anche perché lì dove ce l'ho adesso, tu pensa, io salgo sul davanzale, allungo la mano e dritto il PL, tanto per dire una come in che condizioni è la mia antenna. Ma se io la dovessi spostare dall'altra parte per fare quell'operazione di lavoro, allora dovrei innanzitutto abbassare il tubo che ce l'ho sempre avuto a cannocchiale. Tra l'altro non ho mai e poi messo io in 49 anni e mezzo di CB, non ho mai messo un tirante, mai, e non mi si è mai tirato il tubo. E devo dire che il vento ne prende, perché io da sopra il tetto mio vedo tutto il mare, vedo. Per cui anche perché le case qui nella borgata dove sono io non è che ci sono palazzoni, sono le case tutte all'altezza della mia stessa casa, per cui è tutto libero tutto attorno. Ecco perché ti dico che quando soffia il vento qui lo prende proprio in pieno. Vai, Gioffa. Sì, vediamo se Natalino è rientrato. Natalino? No, evidentemente è ancora impegnato, sta mangiando. Cosa ti volevo dire? Purtroppo è così. Nessuno, se tutti ci dovessimo scegliere la località ideale, magari saremmo tutti uno vicino all'altro. Ma poi anche ogni luogo ha i suoi pregi e difetti, come tutte le cose, no? Quindi non si può mai essere contenti al 100%. E niente, ripeto, il mio problema si chiama Monte Oro, ecco, per Porto Torres è un problema, però siccome utilizzo anche mezzi abbastanza tecnologici per le bande alte, allora il problema è risolto praticamente. O da qua col portatile vai sui punti dell'imbarra tranquillamente, col portatile, perché l'unica copertura che ci può essere è un pezzettino di osilo, ma anche una piccola direttiva che ho autocostruita, che a livello di terra, quindi di prima all'altezza d'uomo, io l'ho puntata in quella valle che vedo tra Osilo, tra Santa Vittoria e Osilo, e evidentemente c'entra in pieno l'imbara che mi arriva discretamente bene, senza particolari problemi. Quindi stiamo parlando di UHF, quindi di frequenze molto alte e molto ottiche. Quindi i pro e i contro. Con l'antenna che avevo qua, quindi questa che ho sulla testa, sempre in VHF, in VHF parlavo con Olbia, praticamente con un collega che era esattamente fuori Olbia, andando verso lì, tra Olbia e la Costa Smeralda, se non ricordo male, Palau. E quindi mi sentiva, facevamo queste tranquillamente. Bisogna accontentarsi, Giulio, in certi punti va, in certi punti non va, ecco. Beh, certo che sì, ma io mi accontento, ripeto, non ho mai avuto io quella diciamo così, pretesa di avere segnaloni, non, tanto la situazione so benissimo com'è, so benissimo come funziona, anche perché ho una certa esperienza in fatto di antenne, visto e considerato che io il mio primo lavoro era fare l'elettricista, nel frattempo facevo anche l'antennista, per cui sapevo benissimo come funziona il discorso radiofrequenza, non è che posso fare miracoli in una maniera più giusta, e poi non mi interessa proprio, nel senso, ti giuro che non mi interessa, a me sentimi Santiago 9 più 20, Santiago di 9 è uguale, o Santiago 7 anche, basta che mi senti, il resto non mi interessa proprio per niente, non sono come tante altre persone che hanno la mania della grande potenza, non me ne frega proprio un bel niente, se no non avrei messo un palo lunghissimo, mi sarei preoccupato di mettere l'antenna dall'altra parte della casa, insomma avrei fatto in modo da poter avere un guadagno superiore come punto S, per cui no, ma non mi interessa, ripeto. Guarda che un giorno se ho voglia, ripeto, la tolgo da lì e la rimetto dove era prima, ma tutto questo sta intanto nel trovare la voglia di fare, perché tutto sommato con la mia età non è che uno si può permettere di fare certi lavori anche là, anche se io sul tetto mi ero fatto la passerella apposita per poterci passare, per l'antenna eccetera, anche per l'antenna della TV uguale, cioè mi spiego, siccome qua le case sono tutte in aderenza praticamente l'uno con l'altro, allora che cosa succede? Io sul mio muro perimetrale della casa, tutto attorno, dovevo passare e dove voglio passare per arrivare all'antenna, dove la prima è anche all'antenna TV che è invece in facciata praticamente, nella parte in facciata, che cosa succede? Ho messo delle tavelle, di quelle tavelle larghe 25-30 cm, lunghe 1 metro, tutte sul muro perimetrale. Dunque io quando salgo sul tetto non ho la minima necessità di mettere un piede sulle tegole, nella maniera più assoluta. Ma era stato fatto di proposito quando ho costruito la casa, proprio con quella intenzione di poter accedere alle antenne senza danneggiarmi il tetto, ho già fatto, e dici no, e io allora posso anche fare tranquillamente, posso stare tutto il giorno passeggiando sui muri perimetrali, non senza pericolo, perché non c'è pericolo assoluto, in quanto le altre case sono in aderenza, sicché vede bene che al limite se dovessi avere un piccolo barcollamento così fisico, posso mettere il piede o su di me tegolo oppure sulle tegole degli altri, mi spiego Gioffa. Sì, infatti è la cosa migliore, e Giulio cosa ci vuoi fare? ci sono persone che devono uscire per forza con potenze stratosferiche, se no se arrivano S9 già è una sconfitta, ma è questione di gusti. Se tu pensa, quello lì mi sentiva senza problemi o con piccoli problemi, quello del Veneto, con meno di 2 watt di potenza. Eppure io ho tutti i mesi, lo sai, trasmetto così perché mi piace trasmettere così, sono sempre stato un appassionato del QRP, della poca potenza e dell'alta resa. Però diciamo ho parlato e sentito con Alghero senza particolare problemi, con una potenza veramente ridicola, meno di un portatile praticamente. E così anche quando utilizzo le frequenze più alte, tu pensa che in banda laterale, quando opero in banda laterale in onde corte, con la sola potenza di questo giocattolino, che è piccolo, seppur molto tecnologico, che in banda laterale credo che lui un massimo di forse 10 watt dovrebbe essere, in HF con l'antenna che c'è fuori verticale, che è collegata a un accordatore navale, io prima premo il pulsantino, l'antenna su qualunque frequenza si accorda e poi trasmetto con questi miseri 10 watt, magari in QSK oppure in PSK eccetera. Bene, quasi sempre al primo colpo tu senti le stazioni tedesche, inglesi, anche ho notato che sono eccezionalmente favorevole per tutti i paesi dell'est, la Russia oramai quando qualcuno mi chiama neanche le rispondo perché sono sempre lì, capito? Lo so che ci arrivo, quindi figurati mettendo le potenze che sento qua, se metto 40 watt neanche fa, guarda, perché sarebbe un segnale talmente alto che non c'è più gusto. Tutto lì, invece avere la soddisfazione di passare con queste potenze anche a distanze considerevoli, non è poco, capito? Lo stesso mi era capitato con un portatile, cioè io chiamo portatile, ma con un'altra radio che è spalleggiabile con un'antenna esterna, ero sotto un albero, ho fatto una chiamata, erano in 10 metri, allora mi ha risposto l'Argentina, potenza massima della radio era intorno ai 20 watt, però a sentire l'Argentina che ti chiama, insomma è una grande soddisfazione, certo c'è di mezzo la propagazione, tutto quello che vuoi, però sono sempre 2 watt. Eh beh certo, perché io mi ricordo prima, quando avevo l'altra antenna, era la stella con 16 radiali, una bella mattina, ho parlato con la Florida, tu mi dici, ma è la propagazione che ti ha aiutato? Beh, certamente sì, è la propagazione che mi ha aiutato. E io tieni presente che non ho mai avuto un lineare, io sono sempre uscito con la potenza della radio, niente di più. Però avevo quella stella, era l'antenna, è messa dall'altra parte, naturalmente nella casa, nella parte più alta, eccetera. Eppure sono riuscito a collegare la Florida o Giappone, cosa che può capitare una volta ogni morte di Papa, perché non è mica facile arrivare in Florida. Stiamo parlando dell'America, non stiamo parlando di usi, di tizio o sorso, tanto per fare un esempio. Non è di niente, tu mi dai, ma la propagazione, certo, è la propagazione che mi ha permesso di arrivare lì, indubbiamente sì. Ma per esempio, io da questa posizione, ecco, tanto per dire un'altra, noi avevamo l'abitudine di utilizzare l'LPD sul 433.075, sto parlando di 10, 12, 15 anni fa forse, un po' qui a casa usavamo l'LPD. Io parlavo tutti i giorni con questo amico della Liguria, tranquillamente, con un portatilino da 30 euro, vedi bene che a un certo momento, alle volte, mi diceva, ma quella non è la propagazione, no, quella italiano era un radioamatore che puntava la sua direttiva verso la Sardegna e parlavamo tutti, non solo io, tutti quanti parlavamo con questo amico di Genova, della Liguria, parlavamo tranquillamente, senza nessun problema, e con grande piacere, soprattutto con grande chiarezza, o già fa, perché lo sentivamo e si sentiva benissimo tutti quanti, tutti indistintamente, sentiva. Vai Giafra. Sì, lo so, ci parlavo anch'io. Se non mi ricordo male era Marco di Imperia, di quelle parti lì, però attenzione Giulio, di lì è un discorso a parte. Io lo sentivo col gommino, ci parlavo col gommino, mi sentivo anche col gommino, ma quello c'aveva un suo fuor d'antenna, non so dirsi lì a dirsi gli elementi che c'aveva con l'antenna, ma c'era una direttiva che toglieva anche i pulcini dal nido, ecco, per dire. Quindi era una stazione proprio fatta per fare quella cosa. D'altronde è anche gestore dei ponti, se non ricordo male, Marco. Sì, anche io col gommino, stiamo parlando col gommino, tutti quanti parlavamo col gommino, non solo io, anche tutti gli altri amici di Sassari parlavamo col gommino e lui ci sentiva. Non eravamo noi che arrivavamo là, era lui che ci acchiappava, perché riusciva a sentirci e allo stesso tempo darci la possibilità di ascoltare lui. E questo è il discorso. Poi senza andare molto lontano, guarda, te lo può confermare anche Sandro. Sandro ti dice che era un periodo che lui andava in Corsica per questioni di lavoro, perché lui faceva un certo tipo di lavoro. Io col mio PMR, sempre da 30 euro, sto parlando del PMR, canale 7, 446-081, ho parlato almeno un paio di volte con Sandro quando si trovava in Corsica. Col gommino, già sto parlando del gommino, non sto parlando con l'antenna, io antenna nel PMR non ne ho mai utilizzato. Me ne andavo su nella parte più alta, cioè in Massana, mi mettevo in terrazza e parlavo con Sandro in Corsica, senza pensare di più. E sto parlando del PMR, oggi a fa. Poi sarà un miracolo della propagazione, sarà quello che vuoi. So solo che io parlavo con Sandro quando lui era in altura, anche lui doveva andare nella parte più alta della Corsica e ci sentivamo. Se hai occasione un giorno di sentire Sandro, se in questo momento non c'è perché è all'estero che sta lavorando, e puoi chiedere, vedrai cosa ti risponde. Vai già fra. Vabbè, Giù, stai sfondando un portone aperto e non una porta, un portone aperto, perché come sai, essendo radioamatore, tutte queste cose io le ho fatte quando ero ragazzino, quindi ho fatto tante quelle prove con Vittorio, è la nostra passione, quindi ma tu figurati che io so punto, ma non perché me l'hanno detto gli altri, io non mi fido di quello che dicono gli altri per motivi tecnici, ma ci sono andato di persona. Io faccio le prove quando esco, tipo quando vado a Bade Urbara, quando vado all'Imbara, quando vado, sono andato anche, adesso dovrei andare verso le parti di Balmy per verificare la copertura eccetera, e praticamente sono cose che faccio di persona, e mi piace vedere un po' la qualità che si riesce a ottenere, però sono sempre cose legate a principi fisici ben catalogati. Non è che oggi ci parli e domani, dopodomani, per una settimana non ci parli perché non c'è preparazione, capito? Io mi sono sempre occupato di collegamenti sicuri, quindi di roba che premi e parli, perché sei certo che lì ci arrivi. E grazie alle possibilità che ti dà il digitale queste cose le puoi sapere, perché allo stesso tempo c'è anche le radio che ti rispondono, soprattutto su quelle frequenze, su VHF, ma anche su VHF per quello che mi riguarda. Quindi è così, capito? A me non è che mi meraviglino più di tanto queste cose. Moltissimo, il 90% delle cose lo fa le antenne e il rimanente lo fa anche la tecnologia di ultima generazione, ecco. Tutto lì Giulio. L'importante è che, però io dico sempre ancora, l'importante sempre dietro ci sia sempre la passione, il divertimento, la voglia di scoprire, che purtroppo è quella che sta mancando e quindi ci ha portato a questa situazione così di pochissime persone, che oramai, anche perché molte sono anziane, e quindi non è che si possano muovere a divertirsi, eccetera. A volte anche problemi a fare un collegamento, figurati. Tutto lì, Giulio. Purtroppo è così. È certo così. Poi ti posso dire anche un'altra cosa. Io, quando abitavo nell'altra casa, avevo semplicemente l'antenna della televisione, ce l'avevo nel terrazzino di casa, cioè attaccata alla ringhiera, perché nel palazzo c'era un'antenna centralizzata, io allora ero in affitto e non potevo salire. Nello stesso tubo avevo anche la Grand Prix, io tutte le santissime notti, tutti i giorni, tutte le notti immancabilmente, io e un amico di Usilo, un certo Ivan di Usilo, che vendeva mobili, insomma, era, non so se fosse il rappresentante, insomma era un mobiliere, poche parole. Sì, mi stanno chiamando il telefono, già fra. Scusa un attimo che rispondo. Arrivo! Ti hanno sentito perché ho gridato. Sì, già fa, stavo dicendo, perché a questo punto parlavo con questa ragazza dell'isola d'Elba tutti i santissimi giorni, d'estate, d'inverno, primavera, autunno, sempre, perché evidentemente da dove abitavo io a dove abitavo lì, all'isola d'Elba, sto parlando della Toscana, sto parlando di Usini o di Tisci o di Ussi, sto parlando della Toscana, parlavamo io, Ivan e questa ragazza, tutti i santissimi giorni, facevamo questo anche a tarda notte, in una maniera bellissima, sentiamo molto basso, però molto chiari anche di radio, sia noi che il Duca e questa ragazza. Perdite già fra. Sì, ok Giulio. Ogni caso, ogni situazione c'ha sempre delle spiegazioni diverse, anche di riflessione da parte di Montagna, per esempio andando proprio lì avanti ieri a Bade Urbana, ho notato che ci sono tanti pallesi riflettenti, quelli lì servono proprio per le frequenze molto molto alte, per le microonde, per riflettere, sono pannelli metallici, sono puntati, praticamente richiamano ripetitori passivi, ecco, non servono altro che riflettere il segnale da una parte all'altra, quindi anche quelli comunque fanno il loro lavoro, non proprio benissimo, però se ci sono è meglio, se li hanno messi vuol dire che già funziona, tutto lì, sono ripetitori passivi praticamente, quindi sono dei semplici pannelli metallici che riflettono il segnale da un'altra parte. Tutto lì. Giulio, ti devo lasciare perché non mi racconto che sono già fra poco le 8:10, quindi mangiucchio qualche cosina perché mangio veramente poco la sera, il meno possibile. Dopodiché mi guardo un pochino di TV, ma di norma me ne vado a guardarmi qualche film su Netflix oppure su Prime. Quindi mi rilasso così. Va bene Giulio, dai, ci sentiamo, penso che tu andrai a vederti la partita o roba del genere, e alle prossime salutami anche Natalino, se entra, dovrebbe essere anche lui impegnato, tanto non so fare tutto io. Ciao Giulio, alle prossime, buona serata, a domani. Ok, ciao Giofra, buona serata anche a te, buona cena, e sì, perché anch'io adesso come avrà sentito ho dovuto gridare perché c'era qua la porta chiusa, dunque la mia voce dovrebbe arrivare giù in tavernetta, praticamente dalla zona notte arrivare alla sala, poi dalla sala alla mansarda, se no non mi avrebbero potuto sentire perché stavo parlando con te e al telefono non ho voluto rispondere. Tutto lì. Va bene, già fra, ci sentiamo domani, quando mai possiamo riprendere anche questo discorso. Poi ti parlerò anche della televisione, che io vedevo Tele Monte Carlo quando Sassari se lo sognava di vedere Tele Monte Carlo, sempre col stesso sistema dell'antenna, col palo nella ringhiera, con le varie tacche sia nella staffa che nel tubo. Di là io vedevo Tele Monte Carlo, Tele Ciocco, tutti quei canali di allora. Va bene, ciao Gianfra, ciao Gianfra, ci sentiamo le prossime, ciao, a domani. Ok, ciao Giulio, a domani. Buona serata anche a tutti quelli che stanno ascoltando. Alle prossime, ciao. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao Claudio, buonanotte, ci sentiamo. Dopo mi guardo la partita, comunque l'Olanda è eliminata, perché ha preso il 2-0 con la Repubblica Ceca. Ciao, stavo guardando anche la partita, ciao, ci sentiamo. Vabbè, stasera me la guardo, mica il migliore, e vediamo chi è che aspetta l'Italia. Beh, ciao Giulio, buon fine serata a tutti, buon fine domenica, bye bye. Ok, ciao di nuovo, ciao. Ciao, alle prossime Claudio, buona serata, ciao. Ciao Gianfra. Cicca.